24 mattino. Le 8 e 17 minuti, eccoci qua di nuovo con 24 mattino e con l'economia. Soldi e dintorni. Ben ritrovata Deborah Rosciani, eccoci qua. Ciao. Per metterci tutti di buon umore oggi parliamo di tasse, benissimo. Ma non è esattamente così, ma perché ti sta così proprio sul naso l'argomento di stamattina? No, non si è mai detto. Non sei molto carino con il mio ospite. Ma assolutamente, carinissimo. Parliamo di estratto conto fiscale online. Allora, guarda, per metterti ancora più di buon umore ti racconto la storia del signor Davide. Non racconto il cognome, non dico il cognome, ma anche se questo è comparso sul Sole 24 Ore. È un impiegato di 40 anni di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi si è visto recapitare a casa una cartella esattoriale dovuta a multe non pagate con una richiesta, ascolta bene Alessandro, di 309 miliardi di euro e qualcosa. Tradotto nelle vecchie lire, ha raccontato il collega Luca Davi sul Sole 24 Ore, 600 mila miliardi, qualcosa come un sesto del debito pubblico italiano da pagarsi gentilmente presso gli sportelli della gente della riscossione. Come diceva Fantozzi, venne colto da un leggerissimo dubbio. Un leggerissimo dubbio. E allora, è capitato a molti, non a molti, è capitato a qualcuno di ricevere cartelle esattoriali di questo tipo, le cosiddette cartelle impazzite. Allora, a qualcuno ovviamente, come nel caso del signor Davide, sarà preso un infarto, a qualcun altro ha invece, come dire, interpellato la gente della riscossione per capire in che situazione si trovasse. Da qualche giorno abbiamo uno strumento in più per verificare la nostra posizione fiscale, quindi rassicurarci qualora ci arrivasse a casa questo documento. Buongiorno a Francesco Ferri, direttore centrale sistemi IT di Equitalia, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, buongiorno. Allora, da pochi giorni appunto ci possiamo collegare ad internet e controllare il nostro estratto conto online, ma relativo alla nostra posizione fiscale, dottor Ferri. Di che cosa si tratta? Che cos'è questo nuovo progetto che in realtà è già partito in 24 province del nostro paese? Sì, diciamo, questo è un nuovo servizio che abbiamo messo a disposizione dei contribuenti, che consente attraverso l'utilizzo di credenziali poi vengono rilasciate dall'Agenzia delle Entrate in questo momento e quindi identificando in maniera corretta il soggetto, dicevo, consentono a un contribuente di verificare la propria posizione contributiva sia rispetto a delle pendenze che ancora ha, sia rispetto a ciò che ha già regolato, diciamo, dal 2000 ad oggi. Ecco, quindi, infatti era la mia prossima domanda, fino a quanto tempo indietro si può risalire, quindi si può consultare la propria situazione debitoria a partire dal 2000? Sì, la posizione debitoria si può consultare partendo dal 2000, la data cosiddetta, diciamo, della riforma della riscossione. Da quella data noi abbiamo tutti i dati elettronici relativi ai ruoli. Ecco, tra l'altro poi ho letto anche che, per esempio, siccome ovviamente una volta che l'Agenzia delle Entrate ci ha fornito le credenziali per entrare in questo sistema, ovviamente dobbiamo dare anche alcuni nostri dati anagrafici. Nel caso in questo periodo, dal 2000 in avanti, avessimo cambiato per esempio più residenze, dobbiamo indicare ovviamente le province nelle quali abbiamo abitato, dottor Ferri, se non sbaglio. Sì, diciamo, in questo momento noi abbiamo scelto di far indicare al contribuente la provincia di residenza. Questo, diciamo, per un motivo anche di usabilità del sistema, nel senso che mettere di fronte il contribuente a diverse pagine, ricordiamoci che la riscossione è ancora su base provinciale, e far riferimento a diversi agenti della riscossione in un unico contesto, anche per un eventuale numero verde, diventava un po' problematico, anche sapendo che i contribuenti che hanno, diciamo, cartelle su più ambiti sono una percentuale molto, molto bassa nel nostro sistema. Allora, siccome non è difficile accedere al servizio, ci può aiutare in questo percorso? Che cosa dobbiamo fare? Allora, la prima cosa importante è, diciamo, ricevere le credenziali dall'Agenzia delle Entrate. Naturalmente nel nostro sito, quindi da www.equitaliaspa.it, c'è il rimando al sito dell'Agenzia a cui richiedere le credenziali. Una volta che si è in possesso di queste credenziali, che sostanzialmente sono un'utenza e una password, si accede al sistema. Lì il sistema propone appunto la regione e la provincia per la quale si vuole fare l'estratto di ruolo. E questo estratto di ruolo può poi essere selezionato per dato storico, ovvero pendenze ancora in corso. Naturalmente c'è un ulteriore filtro sul periodo di riferimento, dopodiché con un semplice clic al sistema si accede alla propria posizione. Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, però, per quello che riguarda le informazioni che noi dobbiamo dare durante questo percorso, per che cosa dobbiamo tenere a portata di mano in quanto a documentazione? Solo il codice fiscale, mi sembra. Solo il codice fiscale. Il codice fiscale è diciamo, avere in mente la password di accesso. E la partita IVA se si tratta invece di un'azienda? La partita IVA se si tratta di un'azienda, chiaramente. Sì, diciamo, il riferimento è quello. Una volta che abbiamo fatto questo percorso, dunque, qual è la prima schermata di fronte alla quale ci troviamo? La prima schermata propone la lista delle cartelle, ripeto, nel caso in cui si è scelta la vista storica, di tutte le cartelle che il contribuente ha ricevuto e ha saldato. Nel caso in cui si sia scelta la vista delle pendenze, chiaramente delle sole cartelle per cui rimane ancora una pendenza. Quindi descrizione in sostanza della cartella, l'ente creditore anche. Date... Il numero della cartella, l'ente creditore, l'importo iniziale e l'importo finale, che chiaramente può essere diverso in funzione, diciamo, di un'eventuale mora o di eventuali procedure attivate. Mm-hmm. Dunque, siete partiti in 24 province, lo dicevamo prima, da nord sì. a sud, fra cui Milano, Roma e Napoli, ma entro breve mi pare di capire che il servizio si estenderà a tutto il territorio nazionale. Quando, dottor Ferri? Diciamo che subito dopo l'estate, per settembre, noi contiamo di avere nel nostro programma c'è proprio il rilascio completo di tutte le 100 province italiane. C'è da fare un piccolo accenno al fatto che Equitalia al momento non ricomprende la regione siciliana, per cui le province della regione siciliana sono fuori dal sistema. La regione siciliana, comunque il sistema, diciamo, di riscossione della regione siciliana propone un suo sistema di estratto conto. Avete già avuto modo di testare quanti contribuenti hanno tentato l'accesso a questo servizio o hanno attivato appunto questo dialogo informatico con l'Agenzia delle Entrate, con Equitalia, con la riscossione? Questo dal punto di vista mio, diciamo che è stata una piacevole sorpresa, nel senso che considerando la difficoltà di accesso proprio per l'identificazione, cioè il possesso di credenziali dell'agenzia, non aspettavamo certo il flusso che abbiamo ricevuto. Parliamo di 50.000 contatti in pochissime ore appena lanciato il servizio. Quanti, mi scusi? 50.000. 50.000 contatti. In pochissime ore. E il sistema ha retto tranquillamente, perché sa, tante volte capita che con queste novità, non appena appunto la sorpresa può essere proprio ricondotta al fatto che c'è il boom di accessi e magari il sistema va in tilt, invece è tutto regolare. Diciamo, le confesso che qualche piccolo problema di tenuta c'è stato, però devo dire che veramente è stato un flusso molto molto importante, ma è stato proprio veramente un problema di primi momenti, poi ora il servizio scorre veloce, non senza alcun problema. Ecco, dottor Ferri, so che lei è comunque, come dire, un tecnico, quindi ha avuto il compito di allestire tutto il sistema proprio dal punto di vista informatico, ma possiamo dare qualche suggerimento ai contribuenti che sono in ascolto? Noi naturalmente siamo partiti da questo caso abbastanza clamoroso di questa persona che si è vista arrivare una cartella esattoriale con una richiesta mostra, l'ha definita appunto Luca Davi sulle Sole 24 Ore, ma secondo lei a chi serve questo servizio? Chi dovrebbe utilizzarlo? Ovviamente tutti, per soddisfare la nostra curiosità relativamente alla nostra posizione fiscale, ma in particolar modo? Ma guardi, innanzitutto è utile per conoscere la propria posizione, perché spesso appunto ci viene richiesto, no, di dimostrare di aver pagato, di aver fatto, eccetera. Noi abbiamo la possibilità qui di rendere noi un servizio, no, come dire, di memoria al contribuente. Il secondo punto è che questo, evidentemente, per chi è tecnico e lo sa bene, non è che il punto di partenza. In questo momento il servizio è soltanto consultivo, noi pensiamo presto di metterci sopra dei servizi dispositivi, quindi con la possibilità poi di pagamento e quant'altro, magari qualche altro servizio, senza far andare il contribuente allo sportello. Benissimo, allora lo ricordiamo, è il nuovo servizio conto online che è stato lanciato da pochi giorni da Equitalia. Per tutte le informazioni ci si può sicuramente collegare al sito equitaliaspa.it. Altre informazioni che ci siamo dimenticati, dottor Ferri, pratiche per i nostri ascoltatori? Soltanto che si accede anche da tutti i siti delle nostre società, quindi se un contribuente fa riferimento al proprio agente della riscossione comunque trova il link al servizio. E l'altra informazione è che presto contiamo di portare il sistema di identificazione anche sugli utenti che già possiedono un PIN dell'Istituto Nazionale di Previdenza, ecco. Nonché ai possessori di carta nazionale di servizio, carta regionale di servizio. Quindi eventualmente, tornando all'INPS, per fare una verifica incrociata anche con la propria posizione previdenziale? No, allora, no. Nella posizione debitoria c'è tutto. dell'INPS utilizziamo soltanto le credenziali, cioè il sistema di identificazione del cittadino. Benissimo. Ma comunque si trova, una volta acceduto al sistema, si trovano tutte le posizioni di qualsiasi ente, diciamo, impositore. Grazie a Francesco Ferri, direttore centrale sistemi IT di Equitalia. Buona giornata e buon lavoro, naturalmente. Grazie. Presto. A voi, arrivederci. Alessandro. E allora, Salvadanaio, oggi mercati, è stata una giornata, una settimana bruttina per i mercati azionari, cercheremo di capire per quale motivo. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle notizie in primo piano, al G8 all'Aquila, intesa trovata tra i grandi sul clima, ma il patto non è vincolante per la Cina, Pechino non firma ma dice obiettivi giusti. Oggi l'agenda del summit prevede che si parli di Africa e sicurezza alimentare, è prevista anche la manifestazione dei No Global a partire dalle 12. Spunta un'intesa nel governo per risolvere il caso Badanti dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza. Si tratta di una regolarizzazione selettiva, partirà da settembre, ne parleremo tra pochissimo. Ergastolo e 6 mesi di isolamento diurno, questa la condanna in appello per Nicolae Mailat per la violenza e l'omicidio nei confronti di Giovanna Reggiani avvenuto il 30 ottobre 2007 a Tor di Quinto. La pena in appello è stata aggravata rispetto ai 29 anni di carcere del primo grado. Infine per il nuoto, nuovo record del mondo per il pluricampione olimpionico Michael Phelps, che si è migliorato nel 100 farfalla in 10 in 50 secondi, scusate, e 22 centesimi. E dunque alle 8:33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. La parola chiave pare che sia regolarizzazione selettiva, una sorta di accordo che starebbe spuntando, un'intesa tra i ministri Saccone e il ministro Maroni per la questione Badanti, dopo l'introduzione del pacchetto sicurezza, l'introduzione del reato di clandestinità, dopo che il sottosegretario Giovanardi aveva detto attenzione, ci sono 500.000 badanti e colf irregolari, ma sono un sostegno importantissimo per le famiglie italiane. Che facciamo? Le buttiamo via? Le portiamo all'estero? E allora ecco che spunta questa regolarizzazione selettiva. Pare verrà fatto un emendamento al decreto, un decreto legge anticrisi che approderà il 20 luglio alla Camera, e si potrà usufruire di nuova regolarizzazione per i datori di lavoro italiani oppure gli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni per regolarizzare da settembre. Onorevole Alessandra Mussolini, buongiorno. Buongiorno. Del Popolo della Libertà, che dice, è contenta? Lei ha presentato un emendamento con altri 3 colleghi alla Camera, un emendamento per fare una cosa simile, che però è stato, come dire, giudicato no, quella non è la strada giusta per regolarizzare. No, noi la vogliamo fare molto più estensiva, anche perché ci sono le badanti, ci sono le colf, noi dobbiamo avere anche altri lavoratori che lavorano ad esempio al sud, in Sicilia o in altre zone nel mondo agricolo. Quindi quello che io credo è che bisogna avere veramente la linea dura per quelli che entrano in Italia con la finalità di delinquere, perché hanno delle caratteristiche ben diverse, altro è andare contro anche delle famiglie, perché poi essendoci il reato di clandestinità si incappa nel reato di favoreggiamento se la famiglia ha una badante clandestina, quindi non con il permesso di soggiorno. Perché? Perché hanno delle responsabilità, curano i nostri cari, quindi non è con queste persone che tu te la devi avere questa linea dura, ma con le altre. Quindi adesso noi abbiamo questo un problema, l'abbiamo sollevato tra i primi nel PDL alla Camera. Adesso c'era un no generalizzato, no, non si può fare assolutamente, quindi con Giovanardi, con altri del governo, con Sacconi si sta pensando a questa correzione che bisogna fare per quanto riguarda, adesso loro pensano solamente ai badanti, noi pensiamo anche ad altro, comunque è già un primo passo, è una cosa importante. Ma che dice, cioè, perché secondo lei che è stato sbagliato il pacchetto sicurezza, è stato un errore? No, ci sono dei correttivi che vanno fatti, perché noi dobbiamo poi far emergere la clandestinità, ma se tu con il reato di clandestinità impedisci di fatto ogni minimo accesso ai pubblici uffici, quindi ogni finestra per poter emergere, rimangono in clandestinità, non li vedi più. Tra l'altro con noi c'è anche l'onorevole Marco Reguzzoni della Lega, buongiorno, vicepresidente, vice capogruppo, insomma, presidente del gruppo della Lega alla Camera. So che vi siete anche battibeccate sulla vicenda di Salvini, ma questa è un'altra, no? Onorevole Reguzzoni, non è... la Lega era stata la più dura a dire, mi ha molto colpito il ministro Calderoli quando è intervenuto Giovanardi a dire sì sì, le abbiamo viste noi le domande delle badanti, metà erano prostitute che volevano regolarizzarsi. Che cos'è questa, una possibile intesa, una retromarcia, un qualcosa, un mea culpa forse che deve fare la Lega su questa posizione che avete tenuto molto dura e poi vi siete accorti che effettivamente adesso questo problema c'è? No, assolutamente non c'è nessuna retromarcia, noi continuiamo a essere contrari alle sanatorie generalizzate, a misure che rischiano di aprire, riaprire le porte che sono state chiuse dal decreto sicurezza. Quindi la nostra è una linea precisa, noi siamo contro questi tipi di atteggiamenti che rischiano di confondere le persone che stanno all'esterno, perché se noi annunciamo una linea dura ma poi facciamo le sanatorie, all'esterno sembra un invito a venire qui clandestinamente. Questa è la nostra posizione di principio che manterremo sempre. Poi ovviamente ci si trova a capire che ci sono delle posizioni diverse all'interno della maggioranza, se c'è da trovare una mediazione la si trova, perché la politica è necessariamente porta delle mediazioni, questa regolarizzazione selettiva credo che vada proprio nella direzione che noi avevamo richiesto e quindi un no assoluto alle sanatorie che si dicevano sui giornali. Ho capito, vabbè, ma qui è una questione di termini, non vogliamo chiamarla sanatoria, ma che fare per le famiglie che vivono, per le persone che vivono grazie a queste badanti irregolari? Lei che farebbe personalmente? Ma guardi, non è una questione, cioè, fatto salvo il problema di principio che dicevo, per cui è assolutamente importantissimo non dare all'esterno l'immagine di una sanatoria generalizzata, se poi c'è un problema relativo a una famiglia che ha ad esempio un anziano piuttosto che un disabile, che è una famiglia italiana, che ha sempre pagato i contributi, che non ha, cioè, e ci mettiamo 50 paletti e poi diciamo che è una finestra che si apre una volta sola e che non si può riaprire, allora a questo punto io dico vabbè, è un provvedimento che magari non mi piace ma che posso decidere di votare. Io comunque rimango personalmente assolutamente contrario. In principio sì. Una cosa che mi ha colpito, lo scrive oggi il Corriere della Sera, il 48%, uno su due, di coloro che hanno richiesto l'assunzione nel settore del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona ha la stessa nazionalità di chi vuole essere assunto. Qui, onorevole Mussolini, qualcuno ha detto eccolo lì l'inghippo, come possiamo pensare che le badanti vengano assunte casualmente da persone della stessa nazionalità delle badanti stesse? Qui c'è sotto qualcosa. Onorevole Mussolini. No, ma l'ho detto anche prima l'esponente della Lega. Una sanatoria è cosa estremamente diversa. Tra le altre cose, dico, i governi della sinistra lo hanno sempre fatto ed ecco perché noi siamo arrivati a questo punto, a un punto di non ritorno dove si è dovuto cambiare anche con la Bossi-Fini. Altra cosa invece è dire che le badanti sono tutte prostitute o altro, cosa assolutamente non vera. Bisogna nella regolarizzazione, chiamiamola selettiva, operare e mettere dei paletti in grado di poter realmente aiutare le famiglie che hanno queste persone, che si fanno carico di responsabilità enormi e non si capisce perché non debbano o non possono essere messe in regole come accade negli altri paesi europei. E poi certamente occorre un controllo, il controllo che è stato inserito anche nella legge, questo senz'altro, anche perché diciamo la legge è stata inasprita enormemente, quindi lo sanno sia i datori di lavoro ma anche gli extracomunitari che entrano in Italia. Ma le chiedo, perché è venuto fuori adesso questo problema col pacchetto sicurezza? Cioè, voglio dire, già c'è in vigore la Bossi-Fini, voi siete due esponenti, lei comunque PDL, ma insomma di anima di Alleanza Nazionale, e Bossi invece Lega, quindi c'è Reguzzoni. Cioè il problema dell'irregolarità c'era comunque anche prima, con la legge prima, se veniva beccata una badante irregolare, c'era la Bossi-Fini, era irregolare, andava espulso, no? Sì, ma non c'era una sorta di indifferenza o di clandestinità tollerata. Adesso non è più così, quindi c'è da una parte il reato di clandestinità con le conseguenze che porta di tutti i tipi, in senso negativo e in senso positivo. Un altro elemento che io vorrei sollevare e che mi sta molto a cuore sono i minori che entrano in Italia e che non hanno alcun tipo di tutela immediata, a parte un permesso di soggiorno per minore età che arriva dopo una settimana o dopo un mese, e quindi questi minori spariscono, entrano nella criminalità organizzata. Di questo purtroppo non si parla solamente come sempre degli adulti e non dei bambini o dei minori che entrano in Italia. Anche su questo noi abbiamo inserito nella norma che intendiamo presentare assieme ad altri deputati una tutela immediata, cioè un permesso immediato di minore età. Un'ultima cosa, onorevole Mussolini, ma lei, insomma, lei non solo, ricordiamo le firme, i 100 contro i medici spia, poi i presidi spia, poi adesso questa, insomma, questo pacchetto sicurezza all'interno della maggioranza qualche mal di pancia lo sta creando, no? No, bisogna rettificare o correggere delle situazioni che sono, anche secondo me, che portano a conseguenze negative per i cittadini italiani. Ad esempio, io ho corretto anche la norma che diceva che per iscriversi all'anagrafe bisognava subordinare il tutto a una verifica di sedicenti uffici comunali, senza dire quali, che avrebbe portato un onere aggiuntivo per gli enti locali e che avrebbe impedito a tanti anche cittadini italiani di poter, tipo sempre i bambini, di essere registrati. Quindi è stato corretto dicendo che intanto uno fa la registrazione all'anagrafe e poi questo può suscitare dopo una verifica, e trovo giusto, per vedere in che condizioni igienico-sanitarie vivono, però anche gli italiani, perché vorrei dire ci sono delle situazioni al sud come nel nord dove ci sono condizioni di estremo disagio per le famiglie italiane che non li scrivi, cioè non esistono, diventano fantasmi, questo non può essere. Onorevole Reguzzoni, senta, la domanda è uguale e contraria per lei, voglio dire, non crede in una sorta di contraccolpi da parte del popolo leghista, da parte della gente che ha votato Lega? Voi avete appunto detto questa linea dura che ora in qualche modo necessariamente deve essere in qualche modo, come dire, ammorbidita, no? Su questo tema concreto che vi siete resi conto è un problema effettivamente da risolvere. Sì, no, io credo proprio che non ci saranno nessun tipo di contraccolpo, perché è chiaro ed evidente che se non fosse stato per la Lega qui si sarebbe andati verso probabilmente una sanatoria generalizzata. Quindi la nostra posizione è sicuramente servita e serve tuttora a mantenere ferma la linea del governo. Io quello che non capisco è perché si parla e si vuol continuare a parlare di illegalità tollerata, cioè è questo proprio il grande risultato del decreto che noi avevamo approvato del pacchetto sicurezza. Insomma, in Italia basta l'illegalità tollerata, è ora di finirla con delle leggi che vengono fatte ma non vengono applicate. E questo, però, appunto, diceva, non serviva neanche il pacchetto sicurezza, come dice, c'era la legge allora non applicata. Io i Balconi li ho visti mandare indietro quest'estate, insomma. Ecco, allora è stato applicato un pacchetto che prevede delle leggi precise che possono funzionare, quindi non sono leggi che poi la burocrazia non riesce ad applicare. Io mi chiedo a questo punto, ma perché una badante è irregolare? Qual è il motivo per cui non è stata regolarizzata? Perché il datore di lavoro non ha fatto la richiesta di assunzione regolare? Evidentemente perché o non si vogliono pagare i contributi, oppure non si vuole dichiarare per qualche motivo. Allora c'è un motivo che... O perché la legge è molto restrittiva, o il decreto flussi è molto restrittivo. Ma è la legge per tutti. Allora facciamo una legge restrittiva e poi non vogliamo applicarla. E allora vuol dire che noi saremo sempre il paese dell'illegalità. Noi vogliamo portare il nostro paese a essere un paese europeo, dove ci sono le leggi che rispettano tutti. Va bene. E non dove ci sono le illegalità tollerate. Nel ringraziarvi e nel salutarvi, onorevole Mussolini, pare che Salvini abbia dormito con la maglietta del Napoli. Volevo dire solo una cosa aggiunta: ci sono dei lavoratori extracomunitari che hanno fatto una domanda regolare dal 2007 ancora e attendono, aspettano. Certo, quindi se si vuole dare, si devono dare diritti, dei doveri, quindi la scure con chi merita, ma anche favorire quelli che vogliono entrare in Italia a lavorare. C'è anche qui una proposta bipartisan. Aspettare due anni. C'è una proposta bipartisan per far passare passare tutti anche quelli, infatti credo al Senato. Onorevole Mussolini, a concludere, così la chiudiamo definitivamente, no? Pare che Salvini abbia dormito con la maglia del Napoli, così ha promesso stanotte. No, no, così. Ma io vorrei sei mensilità del suo stipendio da europarlamentare, che corrisponde a 150.000 euro, da dare a un centro antiviolenza nel napoletano dove ci sono i bambini. Questo mi piace. No excuse but cash. Niente scuse, ma soldi, cash. Va bene, la ringrazio. Grazie onorevole Mussolini, così come Marco Reguzzoni della Lega, per essere stati con noi. Sono le 8:47 minuti, 349-238-6666. Questo è il numero per i vostri messaggi. Allora, capita di prendere una multa, no? Con l'autovelox, capita a tutti. È capitato anche al sindaco di Azzano Decimo, Pordenone, Enzo Bortolotti. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, sindaco, io ho detto che questa multa rischia di costarle molto cara, non tanto per i soldi in sé. Allora, lei prese una multa nel settembre dello scorso anno, giusto? Sì, mi sembra di sì. Onestamente la tempistica non me la ricordo, so che era l'anno scorso. Diciamo con l'autovelox. Lei protestò. Protestò perché innanzitutto? Perché come avevo più volte avuto modo di dire, quando i cittadini si presentavano nel mio ufficio protestando a loro volta, i vigili urbani devono fare prevenzione, quindi non repressione, quindi devono mettersi in posizione visibile esponendo i cartelli che c'è in atto la rilevazione automatica della velocità, sì. O avere dei cartelli fissi. Siccome quella è una strada statale, è una strada adesso diventata regionale, per una strada statale non di competenza del comune, non avevamo potuto mettere i cartelli di rilevazione automatica, ed era un punto in cui sempre si mettevano nascosti dalla vegetazione. Lei ha detto sembravano i commandos nascosti. Beh, io non ho visto assolutamente nessuno che mi avesse fatto una fotografia. Le garantisco che sono passato per quella strada decina di volte alla settimana, ma lì quel giorno io vorrei anche precisare che avessi avuto, come hanno molti miei colleghi l'autista, non avrei avuto problemi, ma siccome io non ho, nel nostro comune non si è dotato di questo mezzo anche per contenere le spese, me ne andavo con la mia macchina a una riunione a Prumo, appunto, tra l'altro in provincia di Pordenone, e sono stato verbalizzato. Allora, il problema è questo, però lei ha fatto la trafila che si può fare in questi casi, no? Cioè giudice di pace, ricorso, contestazione. Accorso al giudice di pace. Però lei è il sindaco e questo è un problema. Non è questo il problema. No, nel senso è un problema per dire che qualcuno le ha contestato. Perché non è questo il problema, bisognerebbe conoscere la mia storia. Io sono da molti anni amministratore pubblico. Sì. E i primi due mandati che ho fatto ero assessore con un altro sindaco, ovviamente. Questo è diventato il mio nemico giurato numero uno. Aia. Ed è un mio ex compagno di partito. Lei è della Lega, volevo dire. Io sono della Lega. Lui nel 2007 si è candidato contro di me. Il risultato fu che io ho preso il 63% dei voti, lui il 20%, e da quel momento io sono oggetto costantemente, continuamente di denunce per qualsiasi cosa. Allora, lui che ha fatto questo suo amico, ex nemico? L'ha denunciata perché ha detto un sindaco che fa ricorso contro i vigili urbani, quindi la polizia municipale del suo stesso comune, sì, è praticamente un amministratore incompatibile. Che fa un sindaco che va contro l'amministrazione? Ha fatto il ricorso, sì, e l'ha vinto, cioè il tribunale l'ha dichiarato. No, ricorso, mi ha denunciato la Procura della Repubblica, l'ha denunciato. E quindi diciamo che... Però il tribunale, mi scusi, ha deciso che lei è un sindaco decaduto. Sì, con sentenza impugnabile. Sì, attenzione. Certo, lei fa l'appello, ma lei è decaduto come sindaco secondo la prima sentenza del tribunale. Per questa... Secondo la loro sì, io adesso resterò in carica finché non ci sarà l'appello definitivo. Sì, certo, la impugna, insomma, farà ricorso. Ci sono vari gradi di ricorso, ma io ritengo anche che, vede, questa situazione apre una diatriba non indifferente, perché adesso le faccio un esempio banale. Qualsiasi vigile urbano che ha dei contenziosi o ha un problema col proprio sindaco può tranquillamente perseguitarlo senza che questo faccia portare scusi conto. Però sindaco, qui si impone una domanda, perché lei dice perseguitarlo, ma lei a quanto andava quel giorno? Ma onestamente mi sembra di essere andato 20 o 30 km sopra il limite orario, che è extraurbano, faccia conto lei. Ma non è questo il concetto. Può succedere, ritengo che possa succedere a chiunque. Però paghi la multa, voglio dire. La difesa non possa essere considerata in questo modo. Io d'altra parte, ripeto, lei si immagini le faccio questo esempio: se io avessi fatto la stessa cosa, fatto ricorso contro la Polizia di Stato, non avrei avuto nessun problema. Eh no, perché era la Polizia Municipale del suo comune. Sì, quindi... ma io non ho fatto ricorso contro la Polizia Municipale del mio comune, ho fatto contro il prefetto, perché le violazioni del codice della strada sono normate da leggi che sono sovrattese dai prefetti. Sì, sì, però la multa era del suo comandante, insomma, del comandante della Polizia Municipale, sì, di Azzano Decimo. Ripeto, il ricorso non è fatto contro il comune. Ma no, questo sì, ma perché, ma voglio dire, però questo saranno materia per il suo appello, appunto. Insomma, le tenga buone queste cartucce per il suo appello. Però perché non ha pagato la multa? Voglio dire, lei la multa la doveva prendere, perché ha detto andavo 20 km all'ora più del... cioè la pagava, non finiva tutto e non rischiava di essere decaduto. Allora, come lei sa meglio di me che spesse volte, ed è successo anche recentemente, ci sono delle sentenze proprio recenti che hanno annullato tutti quanti i verbali presi con gli autovelox in varie parti d'Italia. Lo sa, perché... ma noi siamo italiani, così troviamo sempre il ricorso, però dico questo, lei si immagini una strada extraurbana, un rettilineo, nessun segnale di rilevazione della velocità, una persona che sta andando a lavorare o come stavo facendo io, eccetera eccetera, non credo che sia un reato da pena capitale. No, quindi, banalmente, sia una sorta di... Adesso, io non voglio metterci il dubbio, anzi, perché qualche volta, come si dice, in tre indizi sono quasi una prova, però lei deve capire che questo sindaco che mi sta perseguitando è iscritto ex sindaco che adesso è passato alla sinistra, ha fatto una variazione politica dalla Lega a Italia dei Valori ed utilizza dei metodi tipici di qualcuno, non so se sei conosce il leader di Italia dei Valori, penso di sì. Vabbè, sì, insomma. Non è qui a difendersi, cioè dice lei sta facendo questa persona, secondo lei, opposizione politica assolutamente usando multe. Questo qua è noto, cioè se venite qua in provincia di Pordenone chiedete a chiunque, lo sanno benissimo. Lei però sindaco un po' ha prestato il fianco, perché se pagava questa benedetta multa non succedeva questa vicenda. Ho anche detto una cosa molto chiara: se il giudice di pace mi condanna, io pago tranquillamente la multa, non è un problema, è una questione di principio, potevo averla ritirata tranquillamente, ma mi pare che sia una questione piuttosto spropositata rispetto a un ricorso per un autovelox, anche perché, ripeto, da questo momento tutti i sindaci d'Italia devono sapere che possono essere tranquillamente verbalizzati, perseguitati. Guardi che è successo, se un sindaco del comune, un grosso comune del Veneto, che adesso il sindaco è passato anche a ulteriori incarichi più importanti, che aveva avuto 40 verbali da un vigile del suo comune, sì. Cioè, voglio dire, avrà diritto un cittadino... Ma lei dice verbalizzati, verbalizzati, perseguitati però no, cioè lei mi sta dicendo la sua polizia municipale perseguita i cittadini? No. Dico che spesse volte non si utilizza, cioè ripeto, se uno si mette a lungo l'autostrada con l'autovelox visibile, espone i cartelli, non è un problema. Ma non si fanno le imboscate. Esattamente questo, ma guardi che i cittadini questa cosa la soffrono molto, perché cominciare a dare 150 o 180 euro di multa a uno che passa per un limite di 10 km o 250 come qua da noi, io credo sia, specialmente per gente che in questi momenti va a lavorare. In ogni caso, sindaco, io mi devo fermare qui, però adesso seguiremo. Lei, secondo il tribunale, al momento è decaduto come sindaco, però farà ricorso. Certo che se rischia di decadere come sindaco per una multa non pagata, ha fatto ricorso e qualcuno che lei dice un mio avversario politico le ha detto: ah, un sindaco che fa ricorso contro una multa messa dalla sua polizia municipale è incompatibile, insomma, se ne pentirà amaramente di non averla pagata, ma staremo a vedere l'appello. Ci fermiamo qui, grazie a Enzo Bortolotti, al sindaco di Azzano Decimo, Pordenone, Alessandro Marco Tulli in redazione, con Laura Marchesi e Carmelo Lauricella in regia. Do la linea a Oscar Giannino, 9 in punto, ci sentiamo lunedì mattina.